è vicino, non è lontano, non ci arrivo treno, non è tetto né piani né fondamenta, la mia casa profuma di menta, quando arriva la bufera, lei non c'è perché dalla parrucchiera, niente letto né chiari né rubinetto, né cucina né scale né sala da pranzo né bagno né salotto, la mia porta da sul cielo, le finestre senza vetro sono, sul davanzale ci stendo i panni e quando asciugano diventano sogni, il mio indirizzo non è mai esistito, la posta arriva per caso, io la mia casa me la porto di dentro e dove vado lei mi segue sorridendo. La notte poi sono nei guai, c'è il rimbo che fa un casino, Baudelaire sempre lì a bere del vino, Thomas Dylan a lui sembra tutto strano. In cantina ci ballano, i miei sogni si divertono, tracce di musiche che vengono dal cielo ed entrano in me piano piano. Non ci sono vetri né pareti, ed i piatti sono tutti spariti, per entrare apro con un sorriso, ci metto fiori nel mio paradiso. Il mio indirizzo non è mai esistito, la posta arriva per caso, io la mia casa me la porto di dentro e dove vado lei mi segue sorridendo.